vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 6 febbraio, il sole in regione è sorto alle 7.24 e tramonterà alle 17.19, la luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. Continua l'analisi di Vita nei Campi nei principali settori dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia. Siamo ancora alla viticoltura con le principali innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando la gestione del vigneto. A seguire una storia del professor Floramo incentrata sul concetto di creanza. Ci sono nuovi contributi per la creazione di frutteti, ne parliamo nella rubrica delle normative, per passare poi a una scheda sul goji, pianta da frutto himalayana che cresce bene anche dalle nostre parti. Poi linee acque e le loro funzioni all'interno dell'alveare nello spazio che dedichiamo alle api, mentre in quello dei nostri amici alberi una serie di notizie sui meccanismi di approvvigionamento dei nutrienti. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Terza puntata oggi, sempre con il professor Enrico Peterlunger, sullo stato della viticoltura in Friuli Venezia Giulia. Oggi ci parla delle innovazioni tecnologiche che stanno entrando sempre più prepotentemente nel vigneto. Vediamo oggi come la viticoltura si aggiorna utilizzando anche le più recenti innovazioni tecnologiche. Appunto, anche il mondo della viticoltura, apparentemente lontano o idealmente lontano dalla modernità tecnologica, comincia ad essere interessato da queste nuove tecnologie. Che atteggiamento dobbiamo tenere nei confronti di questa innovazione sempre più spinta? Vediamo un po' allora quali sono queste tecniche e poi faremo qualche considerazione. La tecnologia in realtà rappresenta un aiuto e anche un aiuto notevole nella comprensione del ciclo vegetativo, nell'attacco dei patogeni, nelle decisioni di tecnica, e questo aiuto è rilevante perché può essere validamente utilizzato per ridurre l'impatto ambientale della viticoltura risparmiando trattamenti, modulando la produzione per ottenere maggiore qualità. Le operazioni che utilizzano maggiormente la tecnologia vanno sotto la definizione di viticoltura di precisione. Essa vuole affinare gli interventi di tecnica colturale analizzando le diverse condizioni e zone del vigneto. Se ad esempio in un vigneto una zona ha una concentrazione maggiore di scheletro, cioè di sassi, lì le viti patiranno maggiormente il secco, avranno meno fogliosità, produrranno meno. Pertanto ridurre l'applicazione dei trattamenti dove c'è meno vegetazione reca dei vantaggi economici e di minore inquinamento. Le condizioni del vigneto possono essere monitorate con sensori che registrano una chioma più o meno sviluppata, di colore verde più o meno intenso, indice di fertilità del terreno e o concimazione abbondante, con maggiore o minore quantità di uva. Ai sensori si aggiungono programmi al computer che possono aiutare nelle decisioni, quello che è chiamato DSS, sistemi di supporto alle decisioni, sistemi simili a quelli, per fare un paragone, che aiutano anche i medici nelle diagnosi, con l'utilizzo anche di intelligenza artificiale. È possibile misurare la temperatura delle foglie da distante con un termometro a raggi infrarossi, il che indica lo stato idrico e l'eventuale necessità di irrigazione. I sensori possono essere portati da droni, ma possono trovare anche su satelliti che ruotano attorno alla Terra e hanno una grande precisione nell'analisi d'immagine, la quale può rivelare l'insorgenza di malattie. Una volta analizzato il vigneto nelle sue parti, questa informazione serve a modulare i trattamenti, le cimature, le defogliazioni, e anche la vendemmia può essere differenziata raccogliendo anche a macchina uve con lo stesso grado di maturazione e dunque potendo fare i vini con una materia prima maggiormente omogenea per ottenere prodotti differenziati. Sono allo studio addirittura dei robot che possono eseguire in vigneto alcune operazioni da soli, trattamenti e addirittura potature, ma sono macchine ancora allo stadio sperimentale e non sono attualmente impiegabili in Italia per ragioni di sicurezza, ma si presuppone che potranno essere disponibili in un futuro non lontano. Infine, un aiuto importante alla gestione del vigneto è il monitoraggio che si può fare con delle applicazioni sul telefonino che consentono una sorveglianza accurata soprattutto delle malattie, condividendo poi fra operatori la allerta per la difesa del vigneto, e fanno parte della tecnologia anche i messaggi di allerta che per i trattamenti vengono forniti tramite reti social dall'ERSA, e anche questo aiuto è molto utile. Ma non c'è il rischio che tutta questa tecnologia soppianti l'uomo nel vigneto? È opportuno mantenere un atteggiamento nei confronti di queste innovazioni, non fondamentalista né a favore né contro, ma questi rappresentano e devono rimanere degli strumenti i quali possono effettivamente rendere la viticoltura, ridurre il suo impatto sull'ambiente, sugli operatori e sul prodotto finale, e pertanto possono essere utilizzati a questo scopo. Questo vale sia nella produzione integrata che nella produzione biologica, ma renderci prigionieri della tecnologia non è un passo assolutamente da compiere. È l'uomo, comunque, che deve rimanere al centro del sistema vigneto, insostituibile perno e motore della produzione e della sua qualità. Screà e disnicià sono due verbi della lingua friulana di difficile traduzione, che celano un universo di corrispondenze della società non solo agricola di queste terre. È il tema della storia di oggi del professor Angelo Floramo. In epoca medievale la creanza aveva a che vedere con l'atto di assaggiare le vivande per avere la sicurezza che fossero buone, che non facessero male a nessuno di coloro che di lì a poco si sarebbero seduti alla stessa mensa per condividerne la convivialità. Una pratica importante, destinata ai servitori e ai valletti di provata fede agli occhi del loro signore. Anche il patriarca di Aquileia ne aveva una schiera, personale preparato, celebrato in tutta Europa per eleganza, competenza e abilità nell'identificare il male, fosse mai celato in qualche boccone, mescolato in un sugo pigmentato o nel pepe di una salsa. Da allora si continua a dire che in un pranzo è educato lasciare la creanza, lassà le creance dentro al piatto. Non finire tutto subito, ma riservare sempre qualcosa per dopo, per gli altri, che potrebbero magari trarre beneficio da tanta grazia di Dio e in letizia, senza pensieri, come si fa in tempo di festa. E guai a chi l'avesse sprecata, quella creanza, o peggio, consumata tutta senza preoccuparsi di nessuno, pensando soltanto al proprio appetito e interesse. A ognuno il suo, senza esagerare, nella misura del bisogno. Le madri fanno lo stesso con i loro figli più piccoli, assaggiano per prima la pappa per verificare che non sia troppo calda o troppo fredda, poco saporita o peggio dal sapore corrotto, guasto, immangiabile. L'atto dell'assaggiare la creanza ci illumina su di un'altra parola straordinaria presente nella lingua friulana, ovvero il verbo screà, e che risulta essere ancora più antico del sinonimo disnicià, entrambi intraducibili in italiano. Più sacrale, il termine si ricollega a una fede negli altri, quelli che formano una comunità. Vivere cence creance, senza la creanza, espone a un giudizio morale severo. Colui che non condivide la sua creanza con gli altri resta uno screanzato, che ha perduto per sempre la buona educazione o, peggio, dimostra di non averla mai conosciuta. Uno privo di cultura, dunque, uno sfacciato, spudorato, senza misura, che non è adatto a condividere assieme agli altri un progetto di vita o una speranza. Uno di cui diffidare, insomma. Forse un brigante, un bandito, o un ladro. Oggi ci sembra di vivere in una società in cui la creanza non è più di moda. Tutto deve essere consumato alla svelta, tanto il tempo quanto il vivere, macinando insieme rispetto, fiducia e dignità. Abbiamo trasformato la creanza in spreco. Ci siamo dimenticati che il bene di tutti vale molto di più del privilegio dei pochi. La legge di stabilità della Regione Friuli Venezia Giulia per il 2022 prevede nuovi incentivi per il settore agricolo. Ce ne parla Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Sì, nella legge regionale 24 del 2021, pubblicata sul bollettino ufficiale del 31 dicembre scorso, troviamo diverse misure di aiuto per il comparto agricolo e agroalimentare. Per motivi di tempo oggi ne trattiamo solo una, anche perché i termini per presentare eventuali domande sono molto ravvicinati. Si tratta di aiuti per le aziende agricole che intendono realizzare nuovi frutteti di melo o actinidia, il cui bando è stato approvato con delibera della Giunta regionale il 21 gennaio. Cosa prevede allora il bando? L'aiuto è finalizzato a sostenere i costi per l'acquisto delle piante, dei materiali di sostegno e dei lavori di tracciamento del frutteto per una superficie minima di un ettaro. Sono esclusi dall'aiuto gli impianti di irrigazione, le reti antigrandine o antinsetto, le spese per la lavorazione del terreno e i drenaggi e eventuali diritti di produzione. La spesa minima per singola domanda è di 35.000 euro, fino a un massimo di 200.000 euro ad azienda e comunque per un massimo di 40.000 euro ad ettaro. La Regione interviene per il 40% della spesa ammessa, elevabile al 60% per i giovani agricoltori. Ci sarà una graduatoria o si prevede di finanziare tutti i richiedenti? Naturalmente il bando individua priorità, in questo caso per i conferenti a cooperative, per i produttori biologici, per i giovani agricoltori e per chi presenta una spesa detta inferiore ai 40.000 euro massimi ammessi. In caso di parità si darà precedenza alle domande con minor spesa ammissibile e in caso di ulteriore parità si procederà in ordine di presentazione. Le risorse disponibili al momento sono 800.000 euro, ma non si esclude che in futuro possano essere integrate. Si diceva che la scadenza è ravvicinata. Sì, purtroppo la legge regionale indica il termine del 15 febbraio per la presentazione delle domande tramite PEC all'indirizzo competitività@certaregione.fvg.it utilizzando la modulistica sul portale www.regione.fvg.it. Fortunatamente la documentazione da allegare è molto semplice e si limita a una relazione descrittiva dell'impianto che si intende realizzare, a un preventivo delle spese datato e firmato dai fornitori ed eventualmente la prova che il produttore è socio di una cooperativa. Prosegue con il professor Raffaele Testolin la carrellata delle piante da frutto che si possono coltivare anche qui da noi. Oggi è la volta del goji. Molti di voi riconoscono facilmente in negozio le bacche di goji, che vengono vendute a caro prezzo, appassite come un complemento alimentare, date le sue pregevoli proprietà antiossidanti e il contenuto in vitamina C, vitamina A e sali minerali, ma pochi sanno che il goji si coltiva facilmente e soprattutto che esistono coltivazioni industriali di tutto rispetto in varie zone d'Italia, Friuli compreso. Le piantine si trovano anche nei nostri vivai. Alla peggio c'è sempre l'acquisto in rete. Scegliete il Lychium barbarum e lasciate perdere il Lychium chinense, che costa meno e vale poco per non dire niente. Le due piante si distinguono facilmente quando sono in vegetazione, perché la prima ha foglie strette e frutti allungati, la seconda ha foglie più tozze e larghe. È una solanacea parente del pomodoro e della patata, originaria delle valli dell'Himalaya e diffusa dal Tibet alla Mongolia, si adatta bene ai nostri climi, potendo sopportare tranquillamente temperature fino a 20 gradi sotto lo zero. È pianta rustica e non ha bisogno di cure particolari. Piantatela in pieno sole e ricordatevi di irrigarla ogni tanto d'estate quando non piove. Fiorisce a partire da giugno e la fioritura può protrarsi per 2-3 mesi. È una bella pianta anche dal punto di vista ornamentale, perché vi offre per tutta l'estate fiori e frutti. I frutti si raccolgono tra agosto e ottobre, mano a mano che maturano potete mangiarli freschi oppure farli appassire e conservarli facilmente per qualche mese. La pianta è un cespuglio ricadente e in un vaso largo fa certamente la sua bella figura in giardino. Qualcuno più coraggioso può tentare la coltivazione di un piccolo filare. Si pianta a distanza di 2-3 metri sulla fila, si alleva a spalliera su 3-4 fili tirati ad altezze diverse. Il primo anno la pianta viene legata ad un tutore alto 2 metri e poi si lasciano ricadere i germogli. Il secondo anno si scelgono dei rami per fare i cordoni. Con la potatura invernale, a fine febbraio, si raccorciano a 30 cm i rami lunghi penduli, favorendo l'emissione di nuovi germogli l'anno successivo. Niente di più facile, ma attenti alle spine. La scorsa puntata con Moreno Greati, che ci cura la rubrica delle api, avevamo parlato delle materie prime necessarie per la vita nell'alveare, affrontando il tema delle sostanze zuccherine. Oggi è la volta di polline e acqua. Il polline è costituito da granuli microscopici e rappresenta il seme maschile delle piante. Viene bottinato dalle api per alimentare le larve delle operaie e dei fuchi dal terzo giorno di vita in poi e per nutrire le api che devono produrre gelatina reale. Il polline rappresenta l'unico l'unico apporto proteico dell'alveare e contiene tutti gli aminoacidi, i costituenti base delle proteine, indispensabili per un corretto sviluppo dell'organismo. Le api, quando raccolgono il polline, si spostano su un fiore avanti e indietro, imbrattandosi in tal modo tutto il corpo di granuli pollinici. I granuli aderiscono alle setole che ricoprono il corpo delle api, le quali, con una serie di operazioni attuate con le zampe, vanno via via a formare nelle cestelle presenti sul terzo paio di zampe le caratteristiche pallottoline. Mediamente un'ape impiega da 5 a 15 minuti per effettuare un carico di polline con due pallottoline del peso di circa 7,5 mg ognuna. In una giornata può compiere fino a una ventina di viaggi, per un totale di circa 300 mg di polline. Una volta rientrate nell'alveare, le api scaricano le pallottoline all'interno delle cellette, dove le giovani ape operaie provvedono all'immagazzinamento, comprimendole con il capo e impastandole con il miele. Nelle celle, il polline immagazzinato subisce una fermentazione che ne aumenta il valore nutrizionale. È stato calcolato che una colonia di medie dimensioni raccoglie in un anno 40-50 kg di polline. La raccolta è più intensa nei periodi in cui vi è un forte allevamento di covata. L'acqua, anche se non ha un immediato riscontro in un prodotto utilizzabile, è una delle materie prime raccolte dalle api. Essa serve per due scopi fondamentali: abbassare la temperatura interna dell'alveare quando è troppo elevata e preparare l'alimento delle larve di operai e di fuco dal terzo giorno di vita. Durante un forte flusso di nettare, l'acqua in esso contenuto può essere sufficiente a soddisfare le esigenze di una colonia. Le bottinatrici di acqua, pertanto, aumentano proporzionalmente alla disponibilità di nettare. Un alveare, in un clima molto caldo, può consumare fino a 5 litri di acqua al giorno e una famiglia privata dell'acqua durante la stagione attiva può soccombere nel giro di qualche giorno. Con Giorgio Valvason, l'arboricoltore che ha firmato assieme a Roberto Barocchi e Aldo Cavani il libro Amici Alberi, che funziona un po' da sottotraccia per questa rubrica, oggi parliamo del nutrimento degli alberi. Gli alberi sono entità vive che hanno bisogno di nutrimento. Cosa vuol dire? Cosa bisogna osservare e soprattutto stare attenti? Generalmente gli alberi in genere non hanno grossi problemi di nutrimento se noi li lasciamo vivere nel loro ambito. Cade il semino, diventa una pianta, si trova in un ambito che dà la possibilità alla pianta di esprimersi, riceve la luce su tutta la sua superficie, nord, sud, ovest, est, e la pianta cresce con l'aspetto naturale e senza aver bisogno di grandi aiuti di nutrimento. Se lo procura da solo. Se lo procura da solo. Ha i mezzi per poterlo fare. Praticamente si sposta non la pianta, ma bensì ha delle armi che manda avanti e sarebbero per potersi nutrire, io le definisco armi perché si muovono, le micorrize, che sono, diciamo, dei funghi che vivono in simbiosi con l'albero, e l'albero dà un 10-15% delle proprie sostanze, e in primavera naturalmente questi funghi si spostano perché si trovano nella massima proiezione delle radici, lungo i peli radicali, e da lì poi in primavera, quando la natura si risveglia, partono e vanno a perlustrare una zona, diciamo 100-200 volte più ampia rispetto, diciamo, alla zona dove si trova la pianta e che esplora con le sue radici quest'area che le serve di nutrimento. Le micorrize praticamente portano acqua e sali minerali che praticamente strada facendo vengono metabolizzati, di modo che quando questi funghi arrivano poi nella pianta, nella zona radicale, iniettano dentro già queste sostanze e la pianta si nutre immediatamente. Se noi pensiamo alle ortensie che hanno le foglie gialle perché si trovano in un terreno che è diverso dal calcareo, da noi in genere noi abbiamo i terreni che sono calcarei, l'ortensia ha bisogno invece di un terreno acido e non riescono ad assorbire il ferro. Queste micorrize portano il ferro già metabolizzato che praticamente fa rinverdire immediatamente le foglie. È E con Amos D'Antoni vediamo ora l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole del Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 27 e 27,20 euro il quintale IVA esclusa. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 28 e 28,40. Il frumento tra 29,80 e 30,30 e la soia tra 60 e 60,50. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 5,70 euro e la soia di 11,50 euro al quintale. Modeste contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in aumento nonostante il poco interesse negli acquisti. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,60 e 1,70 euro il chilo IVA esclusa, le zucchine tra 3,30 e 3,40, i finocchi tra 1,60 e 2,80, la scarola riccia tra 2,50 e 2,80, il radicchio rosso tondo tra 1,50 e 1,60, quello di Treviso precoce tra 1,60 e 1,80, i kiwi da 2,50 a 4 euro, le arance navel da 0,80 a 1,30, le clementine da 0,70 a 1,50 e le fragole da 5 a 7 euro il chilo. Nel settore della pesca, a causa del perdurare del freddo e della pandemia, i prezzi sono leggermente contenuti. Alla cooperativa pescatori San Vito di Brano Lagunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 14 a 28 euro il chilo, IVA esclusa. Le sogliole da 4 a 23, le ombrine da 7 a 27, le canocce da 4 a 13, le orate da 5 a 18, le passere da 4 a 10, le capesante da 13 a 17, i calamari e i calamaretti da 19 a 23, le seppie da 10 a 17, i rombi da 22 a 28. In buona evidenza i destini dei prodotti caseari, con quotazioni stabili. Miglioramento invece il prezzo del latte crudo di vacca francostalla di origine del Friuli Venezia Giulia, dove la commissione camerale di Pordenone Udine giovedì scorso lo ha quotato da 39 a 39,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine nel settore degli avi cunicoli si segnalano ancora scambi attivi con prezzi in salita. I polli a terra vengono pagati tra 1,64 e 1,66 euro il chilo IVA esclusa, le anatre tra 3,26 e 3,30, i tacchini maschi tra 2,10 e 2,12, conigli oltre 2 kg e mezzo tra 2,64 e 2,70, le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 17,60 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo uno sguardo al tempo che farà la settimana entrante. Nei bassi strati d'atmosfera fluisce aria umida da sud-ovest. Stanotte un debole fronte freddo da nord interesserà le Alpi e giungerà domattina in regione seguito da forti correnti settentrionali. Stanotte dunque saranno possibili deboli precipitazioni sparse, più probabili in montagna e sulle zone orientali, con quota neve sui 600 metri circa. Domattina avremo ancora inizialmente cielo nuvoloso, poi cielo sereno o poco nuvoloso, con forti venti da nord. Qualche forte raffica di fen sarà possibile anche a fondovalle e su pianure costa. Martedì avremo cielo sereno o poco nuvoloso, per qualche leggera velatura, ed in quota soffierà ancora vento sostenuto da nord. Farà freddo al mattino e mite in giornata, con zero termico in risalita fino a 2000 metri in serata. Mercoledì l'anticiclone tornerà ad espandersi sull'Europa, mantenendo aria secca a tutte le quote e atmosfera stabile. Il cielo rimarrà pressoché sereno. In montagna avremo inversione termica di notte con temperature miti in quota e zero termico a 3000 metri circa. A parte la notte tra domenica e lunedì, in pianura le temperature minime saranno sempre sotto zero, mentre le massime saliranno a 13-14 gradi. A partire da venerdì potrebbe ristagnare aria umida nei bassi strati, ma per i prossimi 10 giorni non sono comunque previste precipitazioni significative. Si prolungherà dunque questa siccità invernale che ci interessa ormai da parecchie settimane. Come sempre, si consiglia di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. A Santa Apollonia il freddo va in Slavonia, ovvero a Santa Apollonia il 9 febbraio il freddo va in Slavonia. Se ne va. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montalto Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?